Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Italia, come era stato concepito, per mettere fuori gioco Grillo e per ridurre a due un ragionamento che fosse all'interno di una cornice, definiamola europea, centrodestra contro centrosinistra, con una proposta di legge però che era assolutamente debole per raggiungere questo obiettivo. Concordo con Mastella, la mia tesi ormai da settimane, che se Grillo diventa il secondo partito alle europee, l'Italicum cade. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tanto per cominciare la settimana, cosa dice Nencini, segretario del Partito Socialista, nonché viceministro del governo Renzi, viceministro delle infrastrutture. Insomma, qualcuno comincia a temere un po' queste elezioni, un po' tutti, no? I toni sono sempre più alti e Nencini dice che questo Italicum, questa legge elettorale che era stata ipotizzata per mettere di fronte la centrodestra e centrosinistra, potrebbe invece riservare altre sorprese, cioè le elezioni, i risultati potrebbero servire altre sorprese, quindi questo Italicum in realtà non servirà allo scopo per cui era stato ideato. Comunque sale l'attesa, lo immaginate, per il faccia a faccia di Grillo, di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, questa sera a Porta a Porta, ma quando già Effetto Rotte sarà finito da un pezzo perché inizia alle 23:20, ma cercherò invece di seguire con voi, saltando un po' di qua, un po' di là, Renzi e a Piazza Pulita sulla 7 e anche Berlusconi invece sul TG4, quindi colonna. Poi le ascolteremo un po' tutte e due saltando di qua di là, con dei commenti anche di un ospite che ci sarà, ma anche i vostri, come sempre, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì a vostra disposizione, oppure se volete, se preferite, messaggi, sms al 349 238 6666. Dovrebbe cominciare tra poco, se non sono già cominciate le dirette, poi diamo un'occhiata alle reti televisive, ma cominciamo con il riassunto della giornata. Campagna elettorale, Grillo torna in TV da Vespa e attacca Renzi. Finirà come i mafiosi, dice in TV stasera anche Renzi e Berlusconi. Tasi, la tassa è stata decisa solo in un comune su 10, in 12 capoluoghi è più alta dell'Imu. La Camera vota sì alla fiducia sul decreto casa ed è notizia di pochi istanti fa che la Tasi è prevista una proroga a settembre per i comuni che sono in ritardo nello stabilirla. Il triplice omicidio in Sardegna, è stato fermato un amico di famiglia. Gli inquirenti parlano di modalità atroci per eliminare il 12enne testimone scomodo. Libia, l'ambasciata italiana consiglia ai connazionali di valutare un rientro temporaneo. Il Papa parla ai vescovi italiani, no al catastrofismo, no alle divisioni, raccomanda, si pensi, dice, a disoccupati e migranti. La denuncia di Greenpeace, molti gadget e oggetti legati ai mondiali, tra cui palloni e scarpe, conterrebbero sostanze pericolose. Poi la notizia che Antonio Conte sarà ancora il tecnico della Juventus per la prossima stagione. Quindi dalla politica, la politica in TV in vista delle elezioni del 25 maggio delle europee, questa sera c'è l'atteso ritorno, vi dicevo, di Beppe Grillo da Vespa, ma in TV ci saranno anche Renzi e Berlusconi e, come dicevo, cercheremo di seguirli insieme. Dopo la sua sconfitta alle elezioni europee, Matteo Renzi farà la fine di Monti e Letta. Il sistema che lo ha voluto come presidente del Consiglio lo farà sparire nel nulla, come fa la mafia con la lupara bianca. La previsione è di Beppe Grillo, che oggi torna ad attaccare l'inquilino di Palazzo Chigi. Lo fa dal suo blog, in attesa di ripresentarsi stasera nel salotto di Porta a Porta, dal quale mancava da più di 30 anni. La sua sarà un'intervista in diretta, come chiesto dallo stesso leader del Movimento 5 Stelle, nel timore di censure da parte della RAI. Grillo ha già annunciato che porterà un plastico come quelli utilizzati spesso da Bruno Vespa e ha lasciato intendere che, se dovesse essere rifiutato, potrebbe anche disdire la sua partecipazione al programma. In attesa del suo show, intanto, oggi i suoi parlamentari rilanciano la linea dettata ieri dal guru del movimento Gianroberto Casaleggio e fanno sapere di essere pronti a governare l'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Programmi pochi, urla tante e sovrasposizioni mediatiche. La campagna elettorale per le europee si caratterizza sempre più in uno scontro di personalità. Matteo Renzi ci prova a riportare il discorso sull'Europa, ma poi al Premier scappa subito un accenno a Beppe Grillo. Noi non abbiamo bisogno di uscire da, abbiamo bisogno di entrare con più decisioni nella politica europea ed essere capaci di cambiare le cose. Però riesce a cambiare chi governa, non chi urla. Riesce a cambiare chi propone, non chi insulta. Dall'altra parte anche Silvio Berlusconi attacca il leader del Movimento 5 Stelle su Canale 5. Grillo mi preoccupa non molto, di più. Questo signore è un aspirante dittatore, ha delle caratteristiche di violenza e di distruzione che si riscontrano in tutti i più terribili protagonisti in negativo della storia. Ma il leader di Forza Italia non dimentica l'avversario Renzi, che secondo il Cavaliere ha la faccia pulita, ma il suo governo è di sinistra ed aumenta le tasse sulla casa e sui risparmi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Parliamo di casa. La Camera ha votato oggi a favore della fiducia posta dal governo sul decreto casa. Sono stati sì 324, i no 110, poi ci sarà domani il voto finale. Intanto non si placa però la polemica legata a un'altra cosa che riguarda la casa, una tassa, la TASI. Si prospetta sempre più un rinvio. Quando e quanto si pagherà sulla TASI in incertezza regna ancora sovrana. La scadenza per il pagamento dell'imposta è fissata al 16 giugno, ma è probabile che ci sarà un rinvio. Una soluzione potrebbe arrivare in settimana. Entro venerdì, infatti, i comuni devono deliberare le aliquote necessarie a calcolare quanto si pagherà, ma è altamente improbabile che riescano a farlo entro quella data. Per ora solo 832 amministrazioni su 8.000 ci sono riuscite, senza contare che ben 4.000 comuni andranno al voto domenica e quindi hanno già sciolto i consigli comunali. Diverse le ipotesi sul tavolo: lasciare la scadenza della prima rata della TASI al 16 giugno per i comuni che hanno deliberato e rinviare al 16 settembre il termine per gli altri, oppure stabilire per tutti una proroga al 16 settembre. Ipotesi questa che però non piace ai comuni, visto che per alcuni mesi le loro casse resterebbero a secco. È per questo che il presidente dell'ANCI Fassino ha messo in chiaro: se proroga deve essere che il governo anticipi queste risorse comuni, almeno la metà dell'intera TASI, cioè 2 miliardi. Intanto, secondo uno studio della UIL, i comuni che pagheranno una TASI più salata della vecchia IMU del 2012 sono per ora Bergamo, Ferrara e Genova. Roma, Aosta e Brescia invece pagheranno meno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo, è notizia di poco fa che invece dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è arrivato questa decisione di prorogare per i comuni fino a settembre, per i comuni che non avessero ancora deciso l'aliquota per la TASI. Poi ne parleremo ulteriormente dopo. Oggi è stata una giornata nera in borsa, torna ad alzare la testa anche lo spread. Giornata debole per le borse europee, che hanno chiuso in territorio contrastato in assenza di dati macroeconomici di rilievo provenienti da Wall Street. Francoforte e Parigi hanno terminato sopra la parità, mentre Londra e Madrid hanno mostrato performance negative. In evidenza il meno 1,60% segnato dal listino milanese, su cui ha pesato lo stacco dei dividendi di quasi una cinquantina di società quotate. Al netto di tale effetto, che ha inciso sul FTSE MIB per quasi l'1,5%, la flessione dell'indice sarebbe stata minima. A Piazza Affari le vendite si sono concentrate soprattutto sulle banche, dopo l'annuncio di una maxi aumento di capitale da 8 miliardi di Deutsche Bank, e lo spread BTP Bund, che rimane forte a quota 180 punti base, mentre solo 4 giorni fa trattava intorno a 150 punti. Le peggiori nel comparto bancario sono state Unicredit e Intesa San Paolo, in calo rispettivamente di oltre il 3 e del 2%. Male generali, meno 3,7%, che ha pagato il ritorno delle indiscrezioni su possibile collocamento della quota detenuta dal fondo strategico italiano. Bene invece S&T più 2,3% e A2A più 1,9%, in attesa dell'ufficializzazione del nome del nuovo amministratore delegato. Livia Zancaner, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Passiamo all'inchiesta su Expo 2015. Niente scarcerazione per Gianstefano Frigerio e Angelo Paris. Nell'inchiesta il GIP di Milano Fabio Antezza ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per i due tra gli arrestati lo scorso 8 maggio, vi ricordate, nell'inchiesta sulla presunta cupola degli appalti. È in corso intanto oggi, c'è stato l'interrogatorio di Angelo Paris. La cronaca svolta nelle indagini sul triplice omicidio in Gallura, in Sardegna, è stato fermato un 32enne amico di famiglia. Il movente sarebbe legato a una vecchia vicenda di usura. Gli inquirenti parlano di un omicidio barbaro per quanto riguarda il 12enne ucciso con i genitori. Sentiamo allora Pietro Salsano, comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, al microfono di Maria Piera Ceci. I rapporti erano di frequentazione, perché il soggetto arrestato si prestava a fare diverse attività tipo lavori idraulici o cose del genere, quindi c'era una conoscenza abbastanza diffusa. Tenga conto che parliamo di Tempio Pausanio, cioè una realtà piccola comunque, dove più o meno si conoscono tutti. Ecco, lei diceva giustamente un gesto terribile, 3 persone uccise, fra cui un ragazzino di 12 anni. Ecco, vi siete fatti un'idea di come possa essere maturato un delitto così efferato? Più o meno si è pronti un po' a tutto, però ecco, vedere appunto un ragazzino, tra l'altro appena uscito da scuola, una giornata normale, un sabato come tanti altri, finire in quel modo è veramente terribile. Quindi stiamo cercando di concentrare al massimo le risorse per arrivare presto, spero, a una comprensione dei motivi che possono avere indotto una persona appunto a esprimere quella violenza su un ragazzino, insomma. Adesso spostiamoci all'estero. L'ambasciata italiana a Tripoli ha consigliato ai connazionali di valutare, qualora non ci siano esigenze particolari, rientri temporanei in Italia in attesa di un chiarimento della situazione sul terreno. E quanto si legge in un avviso della missione diplomatica italiana rivolto agli italiani in Libia. Vedevo già delle immagini di Renzi, poi tra poco giriamo e proviamo a guardare. Il segretario generale della NATO, Rasmussen, ha detto che la forte preoccupazione per le azioni della Russia espressa dai paesi baltici e dall'Europa orientale certamente non è esagerata, perché quello che abbiamo visto, dice Rasmussen, in Ucraina è scandaloso. Lo dice aggiungendo che non c'è dubbio che la Russia è profondamente coinvolta nella destabilizzazione dell'Ucraina dell'Est. Tra l'altro tra pochi giorni ci sono anche lì le elezioni, poi ne parleremo. Di nuovo in Italia adesso, tornano in servizio i tassisti di Milano, ma non si ferma la polemica. Una corsa da Zuretti 102 a Piazzale Cadorna 2, ieri con Uber Pop era 26 euro, con Uber Black, che è la macchina nera, la Mercedes, 67 euro. La corsa media per noi è dai 13 ai 14 euro. A scandire le cifre delle tariffe un tassista in sciopero davanti alla stazione centrale di Milano. Nel mirino c'è ancora Uber, la multinazionale che permette di noleggiare auto con conducente attraverso smartphone. Un competitor sul mercato che non piace ai tassisti milanesi. Fa svolgere in maniera illegale il servizio di NCC. Adesso con la nuova applicazione Uber Pop consente a chiunque abbia una patente di almeno 5 anni, una macchina non più vecchia di 5 anni, di poter svolgere il lavoro di tassista. Noi appoggiamo la protesta, spiega Francesco Artusa, presidente della Federazione Autonoleggiatori Italiani. Le tariffe di Uber aumentano con la crescita della domanda. In Italia ancora non ce ne siamo resi conto, ma i dati esteri la dicono lunga. E poi si Uber Pop accusa. Ha annunciato la General Manager che verranno pagati sotto forma di rimborso spese. A me risulta che tecnicamente e logicamente un rimborso spese deve essere legato ad altra attività che qui non si vede. Non vorrei che fosse un escamotage per fare in modo che poi gli Uber Pop percepiscono un utile non dichiarato. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di Papa Francesco, che ha aperto per la prima volta l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Ha detto: il paese non deve cedere al catastrofismo, migranti e disoccupazione sono la nostra sfida. Poi ha ribadito no alle divisioni. È venuto il momento di imprimere alla vita ecclesiastica italiana un forte e rinnovato spirito di unità. Ne siamo convinti. La mancanza o comunque la povertà di comunione costituisce lo scandalo più grande, l'eresia che deturpa il volto del Signore e dilania la sua Chiesa. Adesso un lutto nel mondo del teatro. È morto a Torino il regista Mario Missiroli. Aveva 80 anni, era stato per anni il direttore del Teatro Stabile di Torino. Nato a Bergamo il 13 marzo del 1934, era considerato uno dei registi più innovativi della scena teatrale italiana. E oggi è stata una visita sorpresa al Colosseo per il principe Harry prima di lasciare l'Italia. Attendolo oggi la guida che accompagnò Obama nella sua visita a marzo. Harry, prima di andar via, ha voluto così a sorpresa comprare i biglietti per sé e per il suo staff. E per chiudere, secondo una denuncia di Greenpeace, di questo parleremo più tardi, molti oggetti e gadget in vendita per i mondiali di calcio, palloni, scarpe ed altro, conterrebbero sostanze pericolose. E per quanto riguarda il calcio, ve lo dicevo che con un tweet la Juventus ha confermato Antonio Conte come tecnico anche per la prossima stagione 2014-2015. Ci prendiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando e poi vi dicevo, vediamo se riusciamo a captare da una parte all'altra Berlusconi su Rete 4 e Renzi invece sulla 7, mentre Grillo, vi dicevo, sarà poi più tardi a Rai 1. Con i vostri commenti commentate anche secondo voi lo stile e strategie comunicative di questi tre personaggi con la pagina Facebook di Effetto Note, oppure con i messaggi 349-238-6666. Effetto Mezzanotte. Le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui, quindi il riassunto della giornata l'abbiamo più o meno completato. Vi dicevo che cercheremo di seguire adesso a tratti un po' uno un po' l'altro, appena le ad occhio con l'angolo dell'occhio. C'è però, vedo Renzi, ma sta facendo in realtà un comizio elettorale del PD. Vediamo. Sono tornato da veramente pochi minuti dal montaggio. Oggi ho incontrato Renzi, ascoltate anche un'intervista, e lui batte moltissimo su questa questione degli 80 euro. Ci batte moltissimo, ne parleremo sicuramente. Quello che ti chiedo, Piazza Pulita, che è questo, quindi è un'intervista registrata che manderà probabilmente a tratti Formiglia Piazza Pulita. Vediamo poi tra poco quando inizia invece su Rete 4, la quinta colonna con ospite Berlusconi. Intanto vi ricordo quali sono stati i titoli della giornata. Campagna elettorale, Grillo torna in TV da Vespa, questa sera attacca Renzi, finirà come i mafiosi, dice in TV stasera anche il Presidente del Consiglio e Berlusconi. Tasi, la tassa è stata decisa solo in un comune su 10 e in 12 capoluoghi è più alta dell'IMU, e il Ministero del Tesoro intanto proroga a settembre per i comuni in ritardo. Il triplice omicidio in Sardegna, c'è stata una svolta, è stato fermato un amico di famiglia, gli inquirenti parlano di modalità atroci per eliminare il 12enne testimone scomodo. Per quanto riguarda la Libia, l'ambasciata italiana consiglia nazionali di valutare un rientro temporaneo vista la situazione piuttosto agitata. E poi la denuncia di Greenpeace: molti gadget e oggetti legati ai mondiali, tra cui palloni e scarpe, conterrebbero sostanze pericolose. E quindi adesso passiamo alla politica, eccolo lì, vediamo se riusciamo subito adesso a girare invece su Rete 4, dovrò avere le dita veloci perché vedo schermi a destra e a sinistra, sentiamo il quinto colonna. Basta, questo è non Grillo. Ce la fanno neanche comizio. Più loro ascoltare quella gente lì al supermercato. Ecco, un po' di sigla, tra poco parlerà Berlusconi, e intanto io saluto Marco Cacciotto, buonasera. Buonasera. Buonasera Marco Cacciotto, consulente politico, docente di marketing politico alla Statale di Milano, al quale vorrei chiedere dei commenti, delle osservazioni sulle strategie comunicative adesso portate sempre più a un livello teso dei tre grandi protagonisti di questa ultima campagna elettorale, che sono Grillo, Renzi e Berlusconi, l'ultima settimana questa, no? Prima delle elezioni europee. E intanto, Cacciotto, di questo ritorno di Grillo dopo 30 anni che tanti hanno contestato da Vespa, dopo aver tanto demonizzato i talk show, la televisione in particolare, una marcia indietro, un cambio, un segno di debolezza o semplicemente di cambio di strategia? Beh, secondo me è un tentativo di allargare la base elettorale. Noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle ha una base molto giovane e prende pochissimi voti, diciamo negli over 60, già nella fascia dei cinquantenni fa fatica. E il canale migliore per raggiungere questo elettorato è la televisione, quindi secondo me è un tentativo di incrementare i consensi, quindi anche tornando indietro rispetto all'idea di non partecipare alle trasmissioni televisive, anche se poi con la strategia di occupazione dell'agenda politica in realtà è sempre in televisione. A proposito di essere sempre in televisione, insomma, è ritornato in grande spolvero Berlusconi adesso su Rete 4, stava parlando, però adesso parla invece il conduttore. Alle 11 deve tornare a casa, ma di questo ne parliamo. Torna dopo. A casa presto per ecco. Questioni, diciamo, di prescrizioni così giudiziari. Sentiamo 12 su. 12 mi hanno guardato, eccoli. E mi hanno detto: no, lei non è Cenerentola. Non è Cenerentola. Pare abbastanza chiaro che non sia Cenerentola, Berlusconi, anche se deve tornare per le 11 anziché mezzanotte, Cenerentola torna a mezzanotte, un po' più tardi. Bene, allora, con stasera concludiamo la nostra carrellata di leader e concludiamo per l'appunto con Silvio Berlusconi. Perché abbiamo fatto questa cosa? Perché vogliamo capire. Niente, per ora è il conduttore che tiene la scena, Marco Cacciotto, anche Berlusconi. È tornato, dicevamo, con grande energia, naturalmente non ha deluso chi si aspettava che apparisse in televisione con la sua solita capacità comunicativa, forse possiamo dire un pochino sbiadita, data forse anche l'età, data varie cose che sono successe nel tempo, però sempre sicuro di sé, sempre col suo da qualche tempo, lo tiene anche l'anno scorso, lo teneva questo fascicoletto di carte bianche in mano. Cosa vorrebbe dire? La piuma di Dumbo potrebbe essere, Cacciotto, questo... Ma è sempre l'avere i documenti, l'avere le prove delle sue affermazioni. Berlusconi ha sempre usato cifre, ha sempre fatto l'elenco delle riforme che aveva fatto, fa parte della sua comunicazione. La vera novità è che quest'anno per la prima volta si trova ad essere il terzo incomodo, cioè ad essere il terzo e non a inseguire un secondo posto che può diventare primo, come è accaduto in altre campagne dove partiva in svantaggio. Quindi questa forse è la grande novità di quest'anno, e l'alzare i toni è anche da parte sua il tentativo di raggiungere una fascia di elettori che deciderà in quest'ultima settimana chi andare a votare e se andare a votare, soprattutto questo secondo fattore, quello decisivo, perché tutti e tre i contendenti stanno cercando di mobilitare la base elettorale e diciamo anche quella che più tiepida, cioè quegli elettori che se non motivati a sufficienza potrebbero decidere di stare a casa e decidere l'esito elettorale. Tra l'altro devono smuovere un elettorato in buona parte, ma dico a livello europeo, Cacciotto, euroscettico. Grillo in particolare si fa forte di questo, no? Perché cerca di tenere un tono sempre più alto, diciamo così, con bordate tipicamente sue, proprio per cercare di convincere quell'area grigia, no? Di malcontento sociale, di coloro che l'Europa non la vedono con grande simpatia, e lì potrebbe dare la sua accelerata, no? su questo aspetto. Sì, noi siamo passati in poco tempo da essere il paese più euroentusiasta ad essere quello più euroscettico, però Grillo, se notate, sta insistendo su toni che non sono della campagna europea, perché sta dicendo che se vince Renzi va a casa, Napolitano si dimette, cioè sta facendo diventare una sorta di resa dei conti interna. Quindi l'Europa non c'entra molto, perché teoricamente le elezioni europee non hanno nessun esito sulla politica nazionale. Invece lui lo sta trasformando da questo punto di vista, perché sa che la motivazione per le persone che sono arrabbiate, per una parte della sua base, è legata alla politica nazionale, non alla politica europea. Quindi sta facendo un'operazione di altro tipo, cioè sta spostando su elementi che possono più facilmente mobilitare gli elettori. Sappiamo che l'astensionismo in un'elezione europea già da noi è elevato, l'ultima volta hanno votato il 65% degli elettori 5 anni fa, quindi quest'anno ci si può aspettare ancora meno. Quindi non i numeri delle politiche. Sto leggendo un sottotitolo su Quinta Colonna, su Rete 4: a loro abbiamo restituito il sorriso, e vedo a volte camici, dentisti. Berlusconi, fra le varie cose, aveva anche promesso nella sua campagna elettorale le dentiere per i più anziani. Mi sembra che si stia cercando di conquistare effettivamente, almeno da parte di Grillo e di Berlusconi, vedo anche proprio delle società dentistiche reclamizzate eccetera, stanno cercando di conquistare il pubblico, diciamo, dai capelli grigi. Forse Renzi già piace a quelli un po' più grandi, mentre Berlusconi e Grillo corrono un po' dietro a questo tipo di elettorato con un'età un po' meno verde. Beh, Grillo deve assolutamente cercare di conquistare una parte, perché in quel tipo di elettorato non è riuscito finora ad ottenere consensi. Anche perché l'ha detto in modo piuttosto esplicito: vado a conquistare più anziani che pensano che io sono una specie di Hitler, ha detto, no? Esatto. Ha detto così, e perché sa bene che, insomma, attraverso i canali tradizionali del Movimento 5 Stelle non li può raggiungere, e in più c'è è una fascia di elettorato che ha anche una maggiore appartenenza politica rispetto alle nuove generazioni, quindi ancora le categorie di destra e sinistra, per le fasce, diciamo, più anziane, hanno un significato, tendono più facilmente a identificarsi, quindi è una doppia fatica per lui riuscire a conquistarli, mentre per Berlusconi è cercare di riprendersi una parte del elettorato che ha perso, perché comunque la sua base, anche in questo caso, c'era una base tra gli anziani, tra le casalinghe, cioè non è giovanissima. Diciamo, ci troviamo tre partiti che in questo momento, tre candidati, si stanno contendendo la fascia più anziana, perché devono cercare di espandere un pochino la base elettorale. Proviamo ad alzare ancora Quinta Colonna, perché tutto vedo su un canale e dell'altro, tranne che i protagonisti. Vedo gli anziani che salutano e ringraziano per Operazione Denti, e dall'altra c'è, mi pare, su Piazza Pulita invece vedo Casarin di Sel. 3 trasmissioni al giorno. Siamo Rete 4, quinta colonna, dove c'è Berlusconi. Vediamo se lo fanno parlare finalmente. Il problema è che hanno moltissime persone anziane, soprattutto al sud, dove c'è una maggiore povertà. Io, anche andando a fare negli anni passati delle campagne elettorali, a un certo momento mi sono messo in testa di fare un'indagine e vedere su 10 persone quante persone mancavano di denti. E su 10 persone, una media, 6 mancavano di denti e 1 su 10 di queste persone anziane mancava di tutti i denti. Io ne ho mandati diversi già per conto mio dal mio dentista, ma davanti a un problema di questo genere, nel preparare il nostro programma per quando torneremo al governo, ho contattato l'Ordine dei Dentisti Italiani, abbiamo parlato di quelle che sono le tariffe e abbiamo inserito già nel nostro programma futuro il fatto che lo Stato può tranquillamente accollarsi il costo di impianti dentari, non dentiere. Insomma, diciamo, c'è una buona parte del programma di stile odontoiatrico, Marco Cacciotto, per quanto riguarda Berlusconi, che è l'unico in questo momento che sta parlando. Mi aspettavo anche sulla 7. Renzi invece prendono degli stralci di un suo comizio, intanto c'è invece Farinetti di Italy in studio. Che dice Cacciotto? Non dimentichiamo che comunque gli anziani sono la fascia maggioritaria nell'elettorato, quindi questo è, è sempre da considerare, e partecipano anche di più al voto, quindi c'è anche una precisa scelta elettorale. Noi, il nostro è uno dei paesi più anziani al mondo, quindi spesso io dico che le campagne è molto bello circondarsi di giovani, però poi si vince con gli anziani, e quindi questo è un fattore da considerare. Grillo poi oggi aveva detto Renzi farà la fine dei mafiosi alla Lupara Bianca, no? Quindi scomparire come Monti, come Letta, cioè non si vedrà più. Questi sono i toni a cui siamo abbastanza abituati per quanto riguarda Grillo, e Renzi ha risposto: bisogna avere rispetto per le vittime della Lupara Bianca. Insomma, diciamo che si sente questa tensione degli ultimi giorni, degli sgoccioli della campagna elettorale, e quindi i toni sono quelli che sono, no? Anche se chi è che cerca di mantenersi un po' più equilibrato, chi spara di più, Marco Cacciotto? Ma equilibrati è difficile in questa fase. Hanno un po' tutti e tre la lingua puntita, su questo possiamo dirlo, no? Diciamo, è una bella sfida. Rispetto anche a un anno fa, questa volta nessuno incassa, nel senso che Renzi risponde colpo su colpo, Berlusconi ha incominciato anche lui adesso ad alzare i toni, forse addirittura è quello che tra i due ha alzato meno i toni e adesso sta cercando di recuperare, perché la sfida Renzi-Grillo l'ha messo un po' in disparte, e questo è per chi come lui si occupa di marketing, conosce di marketing, sa che è devastante, perché si rischia di essere marginalizzati e di diventare una scelta poco rilevante per molti elettori. Non a caso si è reso conto che sta attaccando soprattutto Grillo, perché si è reso conto che gli sta mangiando una parte dell'elettorato, o che può farlo, e quindi alza i toni, e alzano tutti i toni cercando di canalizzare in modo diverso lo scontento, la delusione, la rabbia dell'elettorato, che nel nostro paese è molto molto forte, più forte che in quasi tutti gli altri paesi europei. Marco Cacciotto, io intanto la ringrazio, speravo di riuscire a far sentire un po' di più l'uno e l'altro, però invece sulla 7 sta parlando Bianca Berlinguer, non è lì Renzi, mentre Berlusconi continua col suo fascicoletto bianco, una parte l'abbiamo sentita, ci sarà occasione, comunque li vedrete poi nei prossimi giorni, hanno tutti appuntamenti un po' in tutti gli studi televisivi. Grazie Marco Cacciotto nel frattempo. Grazie a voi. Grazie. Adesso stavo leggendo, poi cambiamo tema, per esempio dice Marina: peccato non consentire a Berlusconi di rimanere sino a mezzanotte, magari potevamo vederlo trasformarsi da animale a persona normale. Chi sta parlando, dice un altro ascoltatore, ora età degli elettori di 5 Stelle, forse non sa quanti 50, 60, 70 anni votano e hanno votato 5 Stelle, tutti quasi quelli che io conosco, i giornalisti ahimè sembrano vivere su Marte. Una 57enne, ecco, si firma Cristiano da Lecce: se voterò sceglierò Tsipras, della sinistra greca. L'Italia è troppo rancorosamente ruffiana, meglio un ideale partito dal basso, dice, della miseria greca e una speranza meno sporca. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vi ricordo velocissimamente le notizie più importanti a partire dall'ultima volata della campagna elettorale con Grillo. Stavo guardando le televisioni ma vedo sempre solo Berlusconi. Grillo che dice lupara bianca per Renzi e il premier dice cambia chi governa, non chi urla, e l'effetto europeo pesa su, l'effetto europeo su borsa e spread che risale a 185 punti. La Tasi, il tesoro proroga a settembre per i comuni in ritardo, svolta sulla strage in Gallura, fermato un amico di famiglia artigiano, era al lavoro in casa, il PM ha detto ha fatto tutto da solo. Abbiamo parlato prima di politica, vi ho fatto sentire un po', adesso non c'è moltissimo tempo perché ci sono tanti temi, un po' Berlusconi, pochissimo di Renzi e di Grillo, ma adesso parliamo del pasticcio della Tasi. Saluto Salvatore Chicco Padula, ciao Chicco, vice direttore del Sole 24 ciao, Ore. Ciao, buonasera. Notizia di stasera che in realtà questa è la Tasi per i comuni che ancora non si sono decisi a precisare l'aliquota eccetera, ci sarà una proroga per settembre per i comuni in ritardo, però intanto effettivamente è un solito pasticcio all'italiana, come ha spiegato, che facciamo sentire poco fa, l'ho registrato poco prima della trasmissione perché doveva prendere un aereo, Guglielmo Loi, che è segretario confederale della UIL. Secondo una ricerca della UIL, che cosa succede? Che l'IMU potrà essere pagata più cara in ben 12 capoluoghi e che soltanto circa 800 comuni, 832 su più di 8.000 hanno deciso le aliquote, quindi come al solito no, si deve pagare entro il 16 giugno, per fortuna il Ministero dell'Economia e Finanza ha deciso di prorogarla fino a settembre, lì bisognerà vedere però poi i comuni come faranno e dicono appunto con le tasche vuote, con le casse vuote. Ma sentiamo che cosa ha detto Guglielmo Loi della UIL. Buonasera. Buonasera e buon lavoro. Grazie anche a lei, anche perché di questo lavoro l'abbiamo visto e un pochino ci inquieta, poi ci dirà un po' nel dettaglio, perché emerge da questo vostro studio del Servizio delle Politiche Territoriali della UIL che sono 832 i comuni su 8.092 totali che hanno deliberato quale aliquota applicheranno alla famigerata Tasi. Tra l'altro, su 32 città capoluogo che hanno deliberato la Tasi, in 12 di queste si pagherà più dell'IMU pagata nel 2012, che tante storie, tanto tempo si è perso sull'IMU per cercare di eliminarla, di attenuarla, di rimandarla, eccetera. Adesso invece risulta dal vostro studio che in 12 città si pagherà anche più dell'IMU? Esattamente così, molto dipende dalle scelte dei singoli comuni e anche dal fatto che allora questi stessi comuni avevano tenuto l'aliquota IMU prima casa bassa, la più bassa possibile. Quindi è chiaro che il raffronto si fa anche in base a questo. Il risultato è appunto che un terzo delle città capoluogo vedrà i propri contribuenti, cittadini, pagare più della vecchia IMU che tutti pensavano fosse soppressa e invece è tornata sotto altro nome, con un po' di novità naturalmente. Allora, queste città, quelle dove si pagherà di più, risultano essere Bergamo, Ferrara, Genova, La Spezia, Macerata, Mantova, Milano, Palermo, Pistoia, Sassari, Savona, Siracusa. Però lei diceva, Guglielmo Loi, che in realtà il paragone è diciamo da fare un po' con i piedi di piombo, perché alcune potevano aver avuto anche più bassa l'IMU rispetto ad altre. Dipende sempre da dove si parte, naturalmente. Noi abbiamo fatto un ragionamento puramente aritmetico e si paga di più. Certamente perché spesso l'IMU là si pagava un po' di meno, quindi il raffronto porta a vedere più alta la cifra della Tasi. Non in tutte queste città che ho citato, però, che sono nello studio, si pagava meno. No. Insomma, alcune sì, però, alcune no. In ogni caso sappiano i contribuenti di queste città che comunque abbiano pagato l'IMU, pagheranno di più la Tasi. Esattamente così, perché è un sistema molto complicato che prevede detrazioni ad ampia fantasia dei comuni, però il target, diciamo così, che abbiamo preso a riferimento porterà appunto questi cittadini a pagare di più. Senta, poi diceva prima che c'era qualche altro aspetto particolare? Voleva è veramente un posso usare una parola un po' così, un gran casino. Ecco, tant'è che il governo sta cercando di capire se ci può mettere di nuovo le mani per la quinta volta, nel senso che la TASI è il punto finale di una discussione durata un anno e mezzo che ha visto cambiare sigle e controsigle. Tutto partendo dal fatto che l'IMU non c'era più, però non c'erano i soldi, e quindi quando non ci sono i soldi si individua un altro strumento, che è arrivato appunto la TASI, che non è più la tassa sul patrimonio, ma è la tassa sul valore immobiliare più i servizi indivisibili che i comuni fanno pagare appunto i cittadini attraverso l'individuazione dell'unico strumento, cioè che casa hai, quanto vale, quante rendita catastale ha. E in base a questo ti faccio pagare, tant'è che la novità ulteriore è che una parte la possono pagare anche gli inquilini non proprietari. Senta, poi mi pare di aver letto da qualche parte, cosa sono queste 75.000 combinazioni possibili? Non è il, come il super enalotto che bisogna indovinare, ci sono le probabilità. 75.000 ovviamente è un potenziale numero spalmato sugli 8.000 comuni. Noi abbiamo visto le prime delibere, vabbè, ci sono comuni che hanno inserito 20, oltre 20 modi per definire la detrazione, chi è a favore delle persone più deboli, chi perché il valore catastale è di un certo tipo, insomma il comune si può sbizzarrire, è una tassa veramente federale, nel senso che il comune ha ampia autonomia anche nel definire le modalità di agevolazione, fermo restando che l'agevolazione la pagano gli altri contribuenti, perché in quel caso il comune alza l'aliquota. E siccome il comune di Bologna ne ha messe più di 20, i comuni sono 8.000, se ogni comune ne mettesse appunto 10 di detrazioni diverse, arriveremo a questa cifra di 80.000, 70.000. Tanto per facilitare le cose, insomma, per renderle comunque più convenienti. Immagino sia i contribuenti che i CAF, che i commercialisti, quanto godono. Sale già il mal di testa. Grazie intanto Guglielmo Loi, allora, la lascio grazie partire. A voi. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Chicco Padula, insomma, hai sentito che gran, l'ha chiamato gran casino, effettivamente c'è poco da usare eufemismo. Noi l'abbiamo chiamato pasticcio stamattina. Pasticcio, così, più aggraziato. Sì, più aggraziato. Sì, adesso sai, non è mai bello dire, ma noi l'avevamo detto, però è proprio così, noi l'avevamo detto, noi è da mesi che il Sole 24 Ore dice che in alcuni casi, in alcune città, in alcune situazioni particolari, la nuova TASI sarà, diciamo, più pesante della vecchia IMU, o almeno sarà simile, uguale, quasi uguale alla nuova IMU. Il motivo è presto detto: la vecchia IMU prevedeva una detrazione, uno sconto fisso di 200 euro per ogni prima casa, più gli sconti fissi per i figli, 50 euro per ogni figlio. La TASI questi sconti fissi non ce li ha più, i comuni li devono deliberare, quindi se capita che nel tuo comune questi sconti non siano stati previsti, allora lì è molto probabile che la nuova TASI sia più pesante della vecchia IMU, purtroppo è così. Ecco. Barzelletta, pasticcio, presa in giro, come vogliamo chiamarla? Ma guarda, io adesso siamo in difficoltà, no, è veramente da tanti anni, ahimè, che mi occupo di queste cose, e devo dire però che a questi livelli forse non si era mai arrivati. Io non me lo ricordo, cioè neanche, sai, il 740 lunare del 1994, ma qui siamo ben oltre, insomma, diceva bene Loi della Will. Esatto, Loi della Will, cioè noi abbiamo contato per l'IMU 104.000 aliquote diverse, per la TASI sarà identico, e in più si aggiungeranno le detrazioni, le eccezioni, le esclusioni, quindi sarà veramente una cosa complicata. Adesso arriva questa notizia, insomma, di poche decine di minuti fa, il governo, insomma, ci sta pensando, ha dato la proroga a settembre. Io insomma non sono convinto che questa proroga risolverà i problemi, questa proroga, diciamo, darà un margine e un po' di ossigeno ai comuni, ma per i cittadini i problemi, ahimè, resteranno. Dico la cosa più banale, sì. Insomma, comunque io il primo giugno dovrò cercare di capire se il mio comune è tra quelli che beneficiano della proroga, ovvero tra quelli che non beneficiano della proroga. Forse bisogna guardare su Google Maps, vedere un po' la mappa delle città e capire. No, no, potremmo dare questa idea a Google di mettere le bandierine rosse dove si paga. Hai visto, guarda, abbiamo anche lanciato una proposta della quale vorremmo anche le royalties. Lo potremmo fare noi. Già, potrebbe essere. La lanciavo così questa sera, Salvatore. Pensaci e poi ci riaggiorniamo. Va bene. Grazie Chicco Padula. Grazie, buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in pochi secondi, con la campagna elettorale che ormai è, diciamo, alle tappe finali, con Grillo che torna questa sera da Vespa dopo 30 anni che non era in TV, Berlusconi che sta parlando su Rete 4, Quinta Colonna, e Renzi a stralci, preso invece la 7, Piazza Pulita. Tasi, l'avete sentito, ci sarà una proroga annunciata dal Ministero del Tesoro per i comuni in ritardo, però abbiamo detto è un bel pasticcio per il momento. Il triplice omicidio in Sardegna è giunto una svolta, è stato fermato un amico di famiglia. Gli inquirenti parlano di modalità atroci per l'eliminazione di un ragazzino anche di 12 anni che è stato un testimone scomodo. Libia, l'ambasciata italiana consiglia ai connazionali di rientrare almeno temporaneamente. Poi lo avete sentito che Conte resterà alla Juventus anche per la prossima stagione. Ma adesso è il momento invece dell'Europa. Parliamo di biciclette, un progetto finanziato dall'Unione Europea per incentivare il trasporto intermodale, quindi rendere le nostre città più vivibili, ridurre le emissioni di CO2 e decongestionare il traffico urbano. Una bici in borsa per città più verdi. Insomma, si calcola che se tutti gli europei avessero la bici quanto i danesi, l'Unione Europea potrebbe raggiungere più di un quarto dell'obiettivo prefissato per il 2050 sulla riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Si potrebbero salvare 10.000 persone l'anno dalla morte a causa dell'inquinamento, creando allo stesso tempo quasi 8.000 posti di lavoro. Per questo che la Commissione Europea, nel quadro di Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione, ha deciso di sostenere Bike Intermodal, un prototipo di bici pieghevole e ultraleggera che potrebbe entrare presto nel mercato. Il progetto è capitanato da Tecnologie Urbane, una startup italiana. Il responsabile Alessandro Belli, intervistato da Alessandra Schepisi. Europa 24 notte. La scommessa è di natura, chiamiamola, trasportistica, urbanistica, no? L'idea è che, dato che molti spostamenti quotidiani sono troppo corti per andare in macchina e troppo lunghi per andare a piedi, la soluzione della bicicletta, soprattutto con le città che vengono sempre più infrastrutturalizzate con piste ciclabili, veramente preferibile a molte altre forme. Però c'è sempre il problema che spesso ci sono dei tratti molto lunghi da fare che sono scomodi in bicicletta, mentre invece poi dopo la piccola distribuzione intorno alle stazioni ferroviarie, alle fermate degli autobus, eccetera, poi magari dobbiamo fare un chilometro e mezzo, diventa disagevole. Quindi avere una bicicletta pieghevole molto portatile è un qualche cosa che già si vede, no? Anche con queste pieghevoli che ci sono oggi, è sempre in aumento, e quindi l'idea è appunto quella di fornire uno strumento sempre più idoneo a questo tipo di uso misto. Io uso i mezzi pubblici e uso anche la bicicletta, ecco. Tant'è vero che il logo del progetto europeo è bicicletta intermodale, no? Bike intermodal, nel senso di uso misto intermodale, come si dice in termine trasportistico. Ecco, quindi proprio questo uso misto potrebbe essere un po' la chiave per decongestionare le nostre città, per contribuire, se non a risolvere, comunque a migliorare, no, il traffico. È diciamo può essere un miglioramento di uno strumento che già un pochino appunto viene iniziato timidamente con queste pieghevole un po' pesanti, e che può essere uno dei tanti elementi che migliorano un po' il traffico cittadino, l'utilizzo dei mezzi pubblici, una specie di piccola molecola lubrificante del sistema. Ma rispetto alle bici pieghevoli di oggi, quelle che si vedono sulle strade italiane, qual è in sostanza la differenza? La maggior parte si chiudono intorno ai 150 litri. Noi abbiamo realizzato una bicicletta bella, grande, confortevole, oltretutto anche con motore elettrico, la pedalata assistita, che sta in 30 litri, cioè quindi è un terzo del super record mondiale attuale come volume, ed è un volume piatto, quindi è un oggetto molto, veramente molto piccolo, sta dovunque, sta in metà di un trolley da Ryanair. Per ecco, come peso? Siamo intorno ai 7,5 kg, la metà di una normale pieghevole senza motore. E questo è un progetto che la Commissione europea ha deciso proprio di finanziare anche per l'obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile in Europa, un progetto poi che è stato finanziato anche nell'ambito di Horizon 2020. È un progetto che è una ricerca che è durata molto, coordinata da noi, siamo uno studio di design di Firenze, però ci sono altri partner di 4 paesi europei, c'è una società multinazionale di plastiche tedesca, una società svizzera fantastica che produce motori elettrici per la NASA, per i Mars Rover per intendersi, che ci ha costruito un motore miniaturizzato, sofisticatissimo, leggerissimo, una società di car design che ha fatto tutto la parte dell'engineering, insomma è un consorzio costruito intorno al progetto molto di qualità, ecco, è internazionale e transnazionale come tutti i progetti europei devono essere. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora il minuto che ci manca, saluto Chiara Campione, responsabile per Greenpeace della campagna Detox, che ci deve parlare di una denuncia, di una campagna che state facendo, Chiara, per quanto riguarda i mondiali. Sì, buonasera. Buonasera a te. Sì, abbiamo fatto queste analisi che ormai facciamo periodicamente, dove fondamentalmente testiamo degli indumenti per 3 categorie principali di sostanze chimiche pericolose come i perfluorocarburi, i nonilfenoli tossilati e gli ftalati, perché appunto sono delle sostanze chimiche pericolose che si bioaccumulano nell'ambiente contaminando le riserve idriche globali, e questa volta ci siamo concentrati sui 3 brand sportivi Adidas, Nike e Puma, che in queste settimane stanno in qualche modo sia equipaggiando tutte le grandi squadre di calcio che vedremo protagoniste del Mondiale 2014, ma che stanno anche aumentando moltissimo i loro profitti vendendo questo merchandising. Ebbene, purtroppo anche su questi prodotti, per fare qualche esempio, il pallone ufficiale della Coppa del Mondo, il Brazuca, sono risultati essere contaminati da queste sostanze chimiche pericolose, e anche qui in Italia abbiamo diciamo un triste primato, perché i guantoni da portiere della Puma, che sono poi i guantoni che utilizzerà la nostra nazionale, presentano percentuali di queste sostanze chimiche, in particolare gli ftalati, davvero alte. Dobbiamo lasciarci, Chiara Campione, ma è chiarissima la denuncia, fate attenzione quindi a questi oggetti, a questi gadget legati ai mondiali, e seguite le campagne di Greenpeace. Grazie, a tra poco.